grandi da quella parte va in chiusura, è una strada chiusa, sta chi rumori, nel senso che non passa l'autobus. La città è piena di aree inutilizzate, dismesse o che più semplicemente vengono ignorate dalle persone. Inventare nuovi spazi pubblici significa scovare queste aree e trasformarle in luoghi migliori, utili alla città. L'obiettivo principale deve essere quello di portare i cittadini a vivere quegli spazi e di conseguenza di animare la città, magari aumentando anche le superfici verdi e la presenza di alberi. Immaginare, creare altri mondi possibili, apparentemente inutili, è una forma di conoscenza, un modo grazie al quale si sospendono certe regole affinché ne appaiano altre, poste o imposte dallo stesso processo di creazione. Il vecchio artificio di raccontare storie a noi stessi e agli altri ci costruisce, dà forma alle nostre esperienze e crea la nostra identità, ed è l'invenzione di storie ciò che ci permette di astrarci dal mondo per cercarne un senso. Quanto più la narrazione è fantastica, tanto più deve essere attenta al dettaglio concreto, al reale. Qui risiede il suo paradosso. Non fonda verità, ma ci convince della sua somiglianza con la vita. Un libro aperto, perché noi siamo così, siamo come ci vedete, siamo pieni di voglia di fare, di vivere e di organizzare, andiamo avanti e sfogliamo i nostri giorni uno a uno proprio come fossero un libro, sperando che il domani ci riservi sempre qualcosa di unico e speciale, com'è la nostra gente, com'è la nostra clientela, com'è la nostra terra, un libro magico da leggere ogni giorno con i suoi racconti, con i suoi aneddoti e con le sue curiosità.